per Paradisus, liberate gli schiavi. A metà del 1200, con i suoi 60.000 abitanti, Bologna era una delle 5 città più grandi e influenti d'Europa e stava vivendo un vero e proprio boom economico. Grazie alle ingegnose opere intraprese dal comune per l'approvvigionamento delle acque che alimentavano i mulini da seta, infatti, si era affermata come il maggior polo tessile della penisola, oltre che uno dei più importanti centri di smistamento delle merci. Due erano i principali motivi per cui era famosa a quell'epoca: la sua prestigiosa e antica università, che attirava studenti da ogni angolo d'Europa, e il fatto che tenesse in prigionia Re Enzo, figlio naturale dell'imperatore Federico II di Svevia. È in questo contesto che si inserisce uno degli atti più innovativi della storia di Bologna, il Liber Paradisus, con cui nel 1257 il comune liberò 5.585 servi della gleba, riscattandoli dai loro padroni, di fatto ponendo fine alla schiavitù nel suo territorio con 600 anni di anticipo rispetto a quanto avvenuto, per esempio, negli Stati Uniti con la guerra civile. Il nome del provvedimento, che letteralmente significa Libero Paradiso, deriva dalla prima parola del testo che inizia così: Paradisum voluptatis plantavit Dominus Deus Omnipotens a principio, ovvero, in principio il Signore piantò un paradiso di delizie, per spiegare che Dio aveva donato ad Adamo una perfettissima e perpetua libertà. All'interno del documento si legge che è necessario spezzare le catene della schiavitù, perché nella nostra città possano vivere solo uomini liberi. Altri comuni, in particolare Vercelli, Assisi e Parma, avevano promosso iniziative a favore dei servi della gleba, ma si trattava di casi molto particolari. Ad esempio, un servo in fuga proveniente da un'altra città poteva chiedere una sorta di asilo e, sotto certe condizioni, ottenere entro 10 anni lo status di cittadino libero. Quanto avvenne a Bologna, invece, fu un'iniziativa senza precedenti, di enorme portata storica. Non va dimenticato, inoltre, che il Liber Paradisus necessitò anche di un consistente esborso da parte delle casse comunali, dato che ogni padrone venne indennizzato con 8 lire d'argento per liberare ogni bambino e 10 per ogni servo di età superiore ai 14 anni. Un totale di 54.014 lire bolognesi, che possiamo approssimativamente quantificare come una decina di milioni di euro attuali. Ma fu davvero un'iniziativa promulgata in virtù della pietà cristiana, come sembrano suggerire le cronache dell'epoca, o c'era dell'altro? In realtà, scavando un po' più in profondità, si può dire che si trattò di un vero e proprio investimento. Considerando il quadro economico, infatti, scopriamo che in un periodo di straordinaria espansione, il fabbisogno di manodopera dell'industria tessile era in costante aumento. La società si stava evolvendo, e così le sue esigenze. La servitù della gleba, funzionale alle cittadelle feudali autosufficienti, mal si adattava a una società che basava la sua ricchezza sulla produzione manifatturiera, sul movimento delle merci, tramite il commercio, e delle persone, tramite l'università. I contabili dell'epoca fecero bene i loro calcoli. Ciò che spesero per riscattare i servi lo avrebbero recuperato, e anche molto in fretta, tramite le imposte che da quel momento in poi gli ex servi sarebbero stati obbligati a versare. Questo naturalmente non sminuisce l'importanza di un provvedimento con il quale Bologna scrisse una pagina fondamentale nella storia dei diritti umani. La